oggi vorrei parlarvi, raccontarvi un po' questo pezzo che si chiama Il Paradiso è per voi. Anche l'anima ha bisogno di pane. Forse è l'unico pezzo che parla di una storia d'amore nel disco. In realtà parla di un amore conflittuale, di due persone che si amano, sanno di amarsi ma che fondamentalmente sono incompatibili e non riescono a viversi serenamente la storia d'amore e rimangono sospesi nel cielo. Perché le canzoni parlano da sole, però Elisabetta Pietrelli e Di Mattei sono dei grandi autori con cui io collaboro da sempre, scrivono per me delle canzoni bellissime.